se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. L'America non ci fa mai annoiare, diciamo così. È un personaggio improbabile, perfino esteticamente, diciamo. Sono fra quelli che ancora oggi fanno fatica a capire che cosa abbia in testa, ma non nel cervello, proprio sul cranio, Trump, questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso, questa vela al vento. Anche noi continuiamo ad avere il nostro piccolo circo equestre, rappresentato da tutti quelli che pensano di aggrapparsi alla zazzera di Trump per darsi una qualche importanza. E quindi io, quando vedo Grillo che salta dalla gioia, per un verso mi commuovo, per un altro verso gli domando: ma hai capito bene che questo vuole togliere la sanità pubblica? Hai capito che vuole mettere in discussione alcuni diritti civili? Ma Grillo è un uomo d'onore e salta, è contento. Sei contento? Salta. Salta. Nido di cincia allegra effettivamente non è male. Donald Trump, per il presidente della campagna De Luca, ha un nido di cincia allegra o di quaglia sulla testa. Effettivamente questa zazzera non era mai stata definita così. È il nido di cincia allegra. Come fa la cincia allegra? Chissà, è contenta. Vabbè, Donald Trump ha fatto la sua prima intervista alla CBS a 60 Minutes, programma storico, e ha detto quello che ci si aspettava da Trump. Non è che Trump può dire cose diverse. Ha detto che spacciatori, clandestini, trafficanti di droga hanno due strade: o il carcere oppure fora di ballo. Non l'ha proprio detto così, ma lo direbbe un padano doc: via, via. Espulsi. Che messa così, cioè, io mi chiedo, ma dov'è la notizia? Cioè, ha detto spacciatori, trafficanti di droga, o in carcere oppure via. Non so, c'è invece qualcuno che se li vorrebbe mettere in salotto? Qualcuno che li vorrebbe far accomodare, un trafficante di droga, lo so, vorrebbe così portare altrove, su una portantina, non lo so. Certo, poi il problema nasce quando dice il muro, il Messico, peraltro tra Stati Uniti e Messico sono non so quante migliaia di chilometri di confine, diverse migliaia, ci sono già delle barriere, qualcuno fa sapere che probabilmente su questo paraculeggia un po' Trump, nel senso che metterà a posto quelle barriere, le rinforzerà, ma non è che farà proprio il muro. Sfrutterà quello che già c'è per fare un po' di maquillage, di far vedere che lui mantiene le promesse e via. Il nido di cincia allegra. Signori, siamo qui a 24 mattino. Chissà se è contento di essere associato a Bob Dylan, il premio Nobel Bob Dylan, menestrello sicuramente un po' della sinistra, il nostro Donald Trump. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. Ci siamo alle 6.34 minuti, riparte questa settimana per l'inciso la 185esima decisiva per l'abolizione delle province. Voglio subito salutare il grande Maurizio Bianconi, buongiorno, il nostro buongiorno deputato, a voi, buongiorno. Il nostro aretino preferito, il nostro toscanaccio. Lingua biforcuta, si sa, anche se lui la prende male, questa mia definizione, ma va bene così. Insieme a Maurizio Bianconi c'è Carlo Rienzi, torna il quasi omonimo, il presidente del Codacons, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno a voi, avvocato, tutto a posto. Fate altre cause in questo weekend? Lanciate altri strali verso qualcuno? Sì, abbiamo un bel programma. Oggi ci riuniamo sulle banche, cause per tutti. Le banche dei crack a Roma. Bello, Campidoglio, bello, vicino bello. Alla Raggi. Bello. Bianconi, ha mai ricevuto una causa del Codacons? Qualche provvedimento di legge che magari non lo sa, ma il Codacons magari non lo sa. Avrà votato qualche legge che il Codacons avrà bastonato sicuramente. Ma io di legge ne voto poche, sono all'opposizione. No, vabbè, in passato. Comunque apriamo il Parlamento perché voglio capire cosa ne pensate. Ragazzi, di Trump. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, sentiamo la voce di Trump intanto, no? La CBS, 60 Minutes, costruirò il muro. Senti qua, Donald Trump. Are you really gonna build a wall? Yes. They're talking about a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. Allora, perché vedi, gli ha fatto la domanda. Parlo invece del fence. Il fence è, come dire, il filo spinato, una sorta di barriera. Va bene, ma è più appropriato il muro. Il muro, Bianconi, è il muro, proprio the wall. Vuole un bel murone. Che vuole? Il problema è... che quest'uomo ha ragione un po' De Luca con questo nido di uccello sul capo e con tutto quello che sproloquia. Ma tutti contro sta zazzera di Trump adesso? È abbastanza ridicola, io non lo so, ma comunque a parte l'aspetto, insomma, non è che è rassicurante dopo tutto, però ha vinto, cioè è una, come posso dire, è una volontà popolare che va rispettata, vuol dire che ci sono motivi importanti per cui vince lui e non la Clinton. Io non ci sto a demonizzarlo, insomma, va apprezzato come fenomeno politico e va visto un pochino quello che fa e quello che non fa. L'avete vista la foto che circola? È arrivato, sapete chi ha ricevuto uno dei primi? Quello di UKIP Farage, quello della Brexit. Ah, sì, ma dice che il suo consiglio... Lei è simpatico, però, è simpatico Bianconi a lei, perché lei era per la Brexit. Però è che voglio dire, non è un coglione sotto il profilo politico, perché ha ottenuto una cosa mica da ridere. Ma chi, Trump? Farage. No, non è. No, Farage. Farage. Poi Giuliani non è un coglione neanche lui, perché Giuliani ha fatto di New York una città vivibile e è un merito che tutti gli riconoscono nel mondo. Sì. Non lo so, ecco, io non l'avrei votato come non avrei votato quell'altra, è sicuramente portatore di un cambio importante e di mentalità anche nella gente, che io non disprezzo mai la gente. Neanch'io per carità, perché è già partita la questione, ecco, votano i brutti sporchi e cattivi. La sinistra che una volta era quei brutti sporchi e cattivi, poi è diventata la sinistra dei ricchi, io non ho capito come, e degli intelligenti e dei laureati. Diceva la Latella, hai visto te? No, e tutti i laureati votano di qua e gli ignoranti. Allora, prima di sentire Rienzi, voglio sentire anche Rienzi su questo, ma sentiamo ancora Trump. Trump dice adesso, sempre in inglese, mandare via 3 milioni di immigrati criminali. Sentite un po'. What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Cioè, cos'è che ha detto? Ha detto, noi ci riferiamo ai trafficanti, quelli delle gang, spacciatori. Questi qui hanno due strade, o il carcere oppure fuori dal paese. dove dovrebbero metterli, avvocato Rienzi, se i criminali, gli spacciatori... Mi pare che hai esattamente detto all'inizio che è quello che è logico, quindi Trump sta facendo e dicendo cose che sembrano quelle del suo programma, che in realtà sono cose più che giuste, almeno per gli americani. Cioè è chiaro che non si dovrebbero tenere gli immigrati clandestini, cioè quelli sono in un paese e sono entrati senza rispettare la legge che prevede quel paese per entrare. Quindi e magari sono pure adesso spacciatori. E magari commettono reati perché non possono avere il permesso di lavoro, perché non possono avere il permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. Quindi non sta dicendo proprio niente. Mi pare che abbia sfruttato l'emozione nella fase iniziale prima di essere eletto, adesso sta rientrando. Sì. Poi gli americani hanno diritto di scegliere chi gli pare, cioè anche qui non si può continuare a dire bravo, è bello, bruno, è cattivo. Hanno scelto adesso. C'è un po' la zazzera di Cinciallegra, effettivamente. C'è un po' il nido di Cinciallegra. Il problema sarà la sanità, questa è la preoccupazione. Speriamo che non cambi almeno quel po' di welfare che c'era. E come non lo cambierà? Per i poveri. Certo che lo cambierà. Perché non si torna indietro da queste riforme, secondo me. Comunque. Ma questo non lo so, questa è la prima cosa credo che farà. Invece, tutti a strillare su questa cosa, 3 milioni via, ha detto, l'avete sentito, ve lo faccio risentire se volete, gli spacciatori, i criminali, i disgraziati, in prigione o via. Mi sembra una cosa di buon senso, non è che mi sembra una cosa della deportazione. Non lo so, però Bianconi. Infatti. Di buon senso, non c'è niente di particolare. Certo, detto io da potrei lui. Raccontarle un fatto che mi è successo. Attenzione. L'altra mattina proprio a Roma. E che è successo? Io vado in un albergo da 10 anni, da quando vado a Roma, e c'è una signora che viene dalla Romania. Se potessero parlare quei muri. Comunque, vabbè. E la signora mi dice che è romena e mi fa, dice avvocato, noi si torna via con la mia famiglia, è 17 anni che stiamo qua, ma ora con tutta questa malavita, tutti questi stranieri che ci sono, noi non ci si fa più. Capito? E allora, lei che è di Romania, prende figlioli, moglie e torna a casa sua, dove è stata quest'estate, e c'è una gran tranquillità. Oh, dice, che cavolo, finalmente andiamo in un paese tranquillo, la Romania. Bravo, torniamoci. Voglio dire, non ha torto Trump su questo. Noi ci becchiamo, oltre che la gente che voglia lavorare, tutti i delinquenti del mondo, non è possibile. L'abbiamo detto. Avvocato Rienzi, tutto a posto, 2 anni venne? No. Purtroppo la globalizzazione, la mancanza di frontiere efficienti e il fatto che questo mondo è ricco più di quell'altro, perché lì ci sono le disparità sociali molto sviluppate rispetto a noi, porta a questi trasferimenti epocali di gente, di persone che hanno bisogno di sopravvivere, di stare meglio, anche di sfuggire alle guerre, ma le guerre poi sono determinate da interessi economici, quindi dobbiamo passivamente subire questa cosa, cercando di difendere i valori, la tradizione della nostra cultura e cercando di regolare la legalità, naturalmente. Vabbè, ma vediamo le cose italiane, vedremo che farà Trump. Allora, qui abbiamo un signore che si candida, che ci mette la faccia, e visto che qua siamo partiti un po' in modo come dire lombrosiano, vorrei capire che faccia è per Bianconi. È Salvini, eccolo qua, Salvini che dice ci metto la faccia, mi candido. Se il voto della Brexit ci insegna qualcosa, se il voto americano ci insegna qualcosa, non è più tempo di avere paura, e se voi siete d'accordo, con oggi da Firenze si parte. Mamma mia, com'è arrabbiato Berlusconi, dicono i giornali, caro Bianconi, com'è arrabbiato a vedere anche, dice, Parisi ha fatto una serie di interviste e ha detto così con la Lega ci schiantiamo, prego accomodarsi, chi vuole stare nelle retrovie vada pure con la Lega. Oh, che faccia è Salvini? Ci metto la faccia, dice. Ma Salvini fa quello, fa il suo, non ci trovo niente di strano, mi pare un po' velleitario, ma non ci trovo niente di strano in quello che dice. Io sono, noi siamo per fare le primarie, ed è giusto che Salvini si candiderà a queste primarie con la Meloni, con Fitto. visto con chi voleva candidarsi. Confitto, ma dai, ancora, perché lei sta confitto. Perché lei sta confitto, dai, confitto, ma Fitto. No, Fitto, come dico io, Fitto che sta con Bianconi. Ma infatti si candidi lei che prende più voti di Fitto, secondo me, alle primarie. Quando faremo poi... Io faccio campagna gratuita. Perché siccome il nostro presidente... si fa anche noi con le primarie, ora fonderemo questo movimento e anche io mi candiderò a fare ma fantastico, ma poi, insomma, noi siamo americani, noi abbiamo già appoggiato Carlo Rienzi candidatura a sindaco di Roma, è andata benissimo. E quindi ma è un momento è un momento di chiarimento importante, è andata benissimo. Se a Berlusconi gli tira i coglioni, ce l'ha fatto tirare tanto che insomma non, a lui non è male, eh. Rienzi, vorrei riprovarci con Bianconi. Bianconi alle primarie del centrodestra. Voi continuate a parlare del centrodestra che non esiste più, scusatemi. Un po' è vero. È diventato bipolarismo e lo dobbiamo ricordare ancora. C'è il PD e dall'altra parte c'è il PD distenziente e i 5 Stelle. Punto. Adesso il problema sarà se vince il no, che mandiamo i 5 Stelle come la Raggi al governo, che a Roma stiamo ancora aspettando una buca da tappare, dico una. Non le piace la Raggi, è proprio la Raggi. No, mi piaceva tanto, ma non mi piace più, abbiamo tutte le buche come prima, tutte, la spazzatura ancora per strada, abbiamo il traffico, ma ieri guardavo... tutte le macchine sui marciapiedi, tutte. A Milano è la normalità, cioè a Milano proprio è... cioè, si parcheggia sui marciapiedi, Rienzi. No? Ma qui a Roma non è la normalità, qui è il parcheggio autorizzato. Ah, ecco. Io non ho mai visto fare una multa su una macchina in fila, ci sono le strade che, da una... che ovviamente si può parcheggiare solo da una parte, sì, sì. Sono tutti parcheggiati da tutte e due le parti, per passare gli specchietti... sono sempre a rischio, ma non gliene frega niente a nessuno. Ne butti giù due o tre come quelli. Adesso quando verrà Natale, che succede qui? Già con la pioggia le foglie sono dappertutto. Abbiamo distillato, togliete le foglie, stappate i tombini. Il programma di Rienzi. Andiamo al traffico noi, poi rientriamo, state con noi. E ora Milan, ma non saffogo, saffogo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Ragazzi, molti tedeschi sono inorriditi per l'elezione di Trump, ma pochi sanno che il nonno di Trump era tedesco, nato in Germania. Noi non vogliamo i russi in casa, meglio gli americani se dobbiamo avere i russi. E mi viene proprio da pensare e ridere, perché tutti quei capi di Stato che hanno preso per il culo il leone, ora che dovranno andare ad inchinarsi alla Casa Bianca, ma come faranno ad andare? Che spettacolo! Salvini che dalla mattina alla sera sembra che abbia vinto lui, c'è Michigan e Pennsylvania. Le ultime vittorie di Salvini sono Gallarate e Cascina nella provincia di Pisa, non sono il Michigan e il Wisconsin. Vabbè, allora, ecco, poi c'è questa cosa, caro Bianconi, caro avvocato Rienzi, del voto all'estero, mamma mia, non ci dovevano risparmiare anche questo, cioè, il voto all'estero. Allora, segnalo in premessa che, come ho detto varie volte, sto ospitando a casa questo ragazzo dello Utah, 25enne, Jordan, che ha votato dalla comoda casa di Milano, via mail... Ha votato per Hillary Clinton, ha anche pianto, ha confessato di avere pianto quando ha scoperto che ha vinto Donald Trump, e vabbè, questi sono dettagli, ma ha votato via mail, seduto dalla poltrona di casa mia. Sai che imbrogli in Italia succederebbero? Ma allora non facciamo votare all'estero? Ma che cavolo? Va data l'informazione giusta, se no la gente non lo sa. Lei si ricorda di un senatore che è andato in prigione e non so se c'è ancora, sì. Che era un senatore che votava, che fu stato eletto all'estero, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo chi è stato uno scandalo molto di 2 o 3 anni fa. È accertato che il voto degli italiani all'estero è un voto che è soffre di moltissime storture. Ma se non sappiamo fare le cose, non è che il problema è... Era meglio non lo fare. Tremaglia, peraltro, il centrodestra ha dedicato una vita per fare il voto all'estero. È stato uno dei delitti di Tremaglia questo, perché i voti purtroppo, non è che sono così. Sì. Cosa succede? Il voto viaggia attraverso patronati, sindacati, punti di raccolta, eccetera. Detto tutto questo, è accertato che l'80% di questi voti non è genuino. Quindi andare a cercare due voti là. Ho capito, però cosa dobbiamo fare? A parte che però non è genuino, ma non si sa neanche genuino da che parte. Cioè non so come dire. Il problema secondo è che tutto questo è gestito dal centro-sinistra, che miete sempre successi assoluti all'interno di questa realtà. Ah. Ora, tutto questo fa parte del gioco. Quello che non fa parte del gioco è che il primo ministro, con i soldi nostri, si faccia la sua campagna elettorale. Che scriva la lettera. E che la ministra, sì, questo ministra però l'aveva, questo per correttezza, tutta la diplomazia, l'aveva fatta anche Berlusconi, aveva scritto all'epoca. Ma io se l'ha fatto Berlusconi, non è che due torti fanno una regola. No, certo, però si sa che la politica è così. E che la ministra Monti faccia la sentiamo, dire, sentiamo la, l'avvocato Rienzi che farebbe col voto all'estero. Tutta questa roba. È molto semplice, ma non è il problema. Non sia quello del voto all'estero, a parte la violazione della legge che sapete prevede che gli organi istituzionali non devono prendere posizione, ma tanto l'ha fatto con le trivelle, ognuno fa quello che gli pare qua in questo paese. Il problema è quello del quesito. Noi domani abbiamo in Cassazione la causa decisiva. Ancora. Perché non si può, noi non siamo né per il sì né per il no al momento, il CODA, con attenzione. Domani pomeriggio faremo un confronto in diretta al TV sugli organi di garanzia, in modo di dare ai nostri 1 milione circa di iscritti alla newsletter una indicazione sulle conseguenze. Ma qual è? No, però la causa mi interessa. Cos'è ancora in Cassazione? La causa domani in Cassazione, alle sezioni unite, è sul quesito, cioè su un quesito che obiettivamente non fa capire tutto quelle che sono le conseguenze, le norme abrogate, modificate, ma eccetera. Ma ha fatto ricorso, ha fatto diminuire anche Onida, hanno detto che è a posto. Ma Onida l'ha sbagliato il ricorso, lui voleva lo spacchettamento, la cosa sarà il codaco. No, mi faccia capire, domani allora in Cassazione domani che succede? Domani in Cassazione c'è il discorso del quesito. Il quesito non lo poteva fare l'ufficio referendario, ma lo doveva fare il governo e doveva indicare, la legge dice esplicitamente. Ma chi ha fatto 16 ricorso? Voi del codaco? Sì, noi del codaco e un elettore. L'articolo 16 della legge dice che andavano indicate le norme che si andranno a confermare. Cioè non ce abrogare. L'ha fatta Onida, non ce l'hanno fatta gli altri, tutti noi, i giuristi, ce la farà il Codacons domani. La legge è molto chiara, non c'è niente da fare, manca nel quesito l'indicazione delle norme che si vanno a modificare, il codice. Che prevede la legge, quindi va integrato. Vediamo domani. Abbiamo chiesto di mettere un cartello almeno nei seggi. Però devo chiudere, è il momento, deve ritornare lo psicologo di D'Alema. Abbiamo iniziato questa rubrica, Bianconi ci ha già detto la sua, insomma noi dobbiamo capire che cosa sta succedendo nella mente di Massimo D'Alema. Eccolo qua. Chiaro che se dovesse vincere il partito di Renzi, il PD come tale non ci sarebbe più, ci sarebbe il partito di Renzi. Caro avvocato Rienzi, dottor Rienzi, si metta un po' nei panni dello psicologo di Rienzi. Qual è secondo lei la sindrome di D'Alema? Niente, che non è riuscito a realizzarsi come voleva ed è un po' invidioso, però la sindrome adesso D'Alema non è quello che conta, c'è tutto un popolo che ce l'ha con questo atteggiamento un po' arrogante. Ma noi infatti non importa, noi dobbiamo solo trovare la sindrome. Una cosa proprio su di lui. Sì, proprio la sindrome. Invidia e frustrazione. In sindrome dell'invidia e della frustrazione, direi che è una diagnosi precisa e concisa. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare qui, ringrazio Maurizio Bianconi, di Conservatori Riformisti, parlamentare ovviamente, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons, domani la Cassazione sul ricorso del Codacons, fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti e siamo qui, cari ascoltatori. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo nel giorno in cui è già iniziata la 185esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ottimismo! Dai, Peter, andiamo. Questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso, questa vela al vento. È la pettinatura di Trump, secondo il presidente della regione Campania, De Luca. E perché? Perché in questo lunedì 14 novembre sicuramente le aperture dei giornali sono molto dedicate proprio a Donald Trump. Non il Sole 24 Ore, tasse, così cambia il calendario del fisco, questo è il titolo principale. Ma appunto Donald Trump, presidente americano, ha rilasciato la prima intervista alla CBS nel programma 60 Minutes e ha detto quello che i titoli dei giornali sintetizzano così. Devo dire in maniera un po' impropria rispetto alle vere dichiarazioni di Trump. Comunque, per il Corriere della Sera, USA, via i clandestini. Repubblica, Trump, caccio i clandestini. Da 2 o 3 milioni finiranno in carcere o fuori dagli States. Muro ai clandestini, inizia l'era Trump, anche il titolo della stampa. Mentre per il secolo XIX Trump alza il primo muro, il giorno Trump fuori i clandestini. Quello che ha detto Donald Trump, l'abbiamo fatto sentire alle 6:30, è: stiamo parlando di coloro che sono spacciatori, trafficanti, membri delle gang, criminali, potrebbero essere 2 milioni, costoro o in carcere o espulsi. Trovo una frase di una banalità estrema, a meno che uno, un trafficante di droga, non lo voglia, come dire, mettere su un piedistallo e premiare. Però è chiaro che la sintesi è quella. Dei giornali. Messaggero, nuovo partito dei moderati, è un'intervista ad Alfano che lancia a Berlusconi questa idea, rompa definitivamente con i lepenisti e insomma Alfano dice riuniamoci con Berlusconi. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano invece la controlettera di Marco Travaglio agli italiani all'estero. Cari italiani all'estero, attenti, non fatevi fregare da Renzi. Il Giornale invece, Renzi fa campagna per il sì con l'elicottero di Stato, ha preso un volo blu dopo un tour elettorale in Sicilia, spese 32.500 euro. Libero invece, l'Europa è a pezzi, questo è il titolo di prima pagina. Ma partiamo proprio da Trump. Allora, Donald Trump conquista le prime pagine dei giornali in questa intervista. A pagina 2 del Corriere della Sera racconta Giuseppe Sarcina: via 2 o 3 milioni di migranti illegali, criminali, pregiudicati, fan parte delle gang, trafficanti di droga, verranno cacciati o messi in prigione. Questo appunto ha detto Trump e ripeto, a mio modo di vedere non c'è nulla di scandaloso, forse è la cifra scandalosa, pensare a che 3 milioni o 2 milioni facciano questo, mi sembra esagerato. Donald Trump comunque conferma la linea dura sull'immigrazione, rispunta anche al confine con il Messico che non era stato più evocato, quel muro, dopo la vittoria dell'8 novembre. Lo faremo e sarà il Messico a pagarlo, così dice Trump. In alcuni tratti potrà essere una recinzione, ma lo faremo. Anche qui, a proposito di muro, bisogna leggere l'articolo di Guido Limpio a pagina 3 del Corriere della Sera. Un muro lungo 3.200 chilometri. A pochi metri dal confine con l'Arizona erano in tanti a seguire lo spoglio elettorale americano. Potenziali immigrati, famiglie che hanno parenti che vivono negli Stati Uniti e loro, i re del traffico, i contrabbandieri di uomini e droga. La vittoria di Trump può avere un grande impatto. Intanto i numeri: dei circa 3.200 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico, circa 1.070 sono già protetti da ostacoli. Il muro vero, palizzate in rete, barriere costruite con le piattaforme in metallo reduci del conflitto in Vietnam e nel Golfo, strutture per bloccare il passaggio dei veicoli, recinzione elettronica e filo spinato. Poi vi sono zone, quelle più impervie e lungo il Rio Grande, dove non esiste nulla. In Arizona, uno dei punti più esposti, la situazione è la seguente: 123 miglia di protezione contro l'attraversamento a piedi, 180 contro il transito di mezzi, 66 miglia scoperte. Questa è un po' nei numeri la situazione secondo Guido Olimpio. Di denaro ne serve molto. Il neopresidente ha parlato di una spesa tra i 10 e i 12 miliardi di dollari. Altri l'hanno abbassata della metà, 6 miliardi di dollari. Altri l'hanno raddoppiata, 24 miliardi di dollari. Cifre diverse perché ci sono molti progetti sul tavolo. Sta di fatto che questi sono i numeri su cui orientarsi per quel che riguarda questo muro, secondo Trump. Paolo Mastrolini invece sulla stampa racconta la rivoluzione Trump a pagina 3, le deportazioni divideranno il paese, un viaggio anche tra le guardie di confine, c'è chi dice che il problema è il traffico di droga, non i sudamericani che cercano lavoro, e poi c'è chi dice anche che senza uomini di pattuglia la barriera in sé no, e per sé non servirà a nulla, non basterà, visto che i criminali useranno i tunnel, per esempio, per superare tutto ciò. In ogni caso, Donald Trump si è fatto fotografare con una delle prime persone che ha ricevuto, vale a dire Nigel Farage, il leader di UKIP, colui che si è battuto per la Brexit, tanto che il Corriere della Sera racconta c'è una sorta di internazionale populista, contatti con Farage, contatti con il clan Le Pen. Arriva questa nuova internazionale populista, si chiede il Corriere della Sera. C'è questa foto di Donald Trump e Nigel Farage che sorridono e che ha fatto già il giro del mondo anche per il Messaggero, l'asse Stati Uniti-Regno Unito, così la Brexit accelera. A proposito di lotta alla droga e ai trafficanti, è molto opportuno quello che fa Repubblica oggi, che mette dall'altra parte del mondo, nelle Filippine, un reportage di Angelo Acquaro molto molto bello che vi voglio segnalare a pagina 12 e 13. Qui siamo nel regno del presidente Duterte, uno che tra l'altro ha litigato proprio su questo tema anche duramente con Barack Obama, definito figlio di puntini puntini da parte del presidente filippino. Perché cosa ha deciso di fare il presidente filippino Duterte? Ha dato mandato di fatto alla polizia di uccidere gli spacciatori di droga. Ed eccolo allora gli squadroni di Duterte, il racconto del Far West quotidiano nelle strade della capitale filippina, Manila. E per evitare l'agguato, spacciatori e consumatori si denunciano da soli. Racconta Angelo Acquaro per Repubblica. Il primo pusher stramazza dove comincia Quezon City, il Cristo dell'Iglesia Luzon. È solo una statua di pietra. I poliziotti possono scaricare senza timore di Dio la doppia canna d'ordinanza sul corpo di Ariel Tabukuran, detto Ajing, 22 anni di spaccio e chissà cos'altro. Sono le 2:30 di notte a Manila e un'altra notte di strage appena cominciata. Quanti morti? La sera dei record ne abbiamo contati 22. E chi se la scorda più quella settimana di settembre? Dice Linus Guardian Escandor, l'ex fotografo del Manila Bulletin, che da quando tutto questo è cominciato si è messo in proprio per tenere un diario dell'orrore. Si parla di almeno 4.700 morti. La polizia dice sempre: hanno reagito, ma lo sanno tutti che il tentativo di reazione è solo un trucco per giustificare questa strage. Rodrigo Duterte, il presidente sceriffo, sta trasformando in Far West questo popolosissimo arcipelago del Far East, più di 100 milioni di anime, una carneficina. Venerdì notte l'esecuzione è avvenuta perfino in prigione. Rolando Espinosa, ex sindaco di Albuera, accusato di narcotraffico, è stato ammazzato con la scusa che proprio lì, dietro alle sbarre, avrebbe reagito alla perquisizione delle guardie. Sicuro che è andata così, come no. Ha reagito e si spara così a bruciapelo, senza arresto né processo. Secondo la legge di questi tropici, neppure troppo tristi. Se ti lasci incantare dal lussuosissimo mall di Makati, circondati notte e giorno da eserciti di vigilantes. Il problema, racconta in queste due pagine Repubblica, è che Duterte ha deciso di stroncare la droga così, facendo giustiziare letteralmente i trafficanti di droga. Leggetelo, pagina 12 e 13, gli squadroni di Duterte, è un ottimo reportage del quotidiano Repubblica di Angelo Acquaro. Fa un po' sorridere mettere a fianco l'articolo della Stampa di Paolo Coccorese a pagina 18 del Quotidiano di Torino: le retate dei nonni contro gli spacciatori, i pensionati che si organizzano in alcuni quartieri di Torino facendo una sorta di ronde o comunque di passeggiate serali o prenotturne per difendere il loro quartiere, dicendo alle persone, agli spacciatori: uè, tu cosa ci fai qui? Vai via. Ecco, mettete a fianco questi due articoli, effettivamente non è proprio la stessa cosa. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzo della giornata. Eccolo qua. Siamo sul Giorno. Unioni civili. Il sì di Piero e Gianni. Non siamo gay, ma ci conviene. Succede settimana prossima, succederà a Schio, dove due uomini, Gianni e Piero, conviventi da anni, ma solo amici, hanno deciso di sfruttare la legge sulle unioni civili per sposarsi. O meglio, non si può dire questa parola, unirsi civilmente sabato prossimo, dicendo: non siamo gay, ci prendiamo cura uno dell'altro, ma per convenienza, per pura convenienza, abbiamo capito che conviene unirsi civilmente. Vivono insieme da 15 anni, ci sono tanti benefici con la nuova legge e quindi intendiamo sfruttarli. E la madre di questa legge, la senatrice Cirinnà, dice: beh, dove sta il problema? I matrimoni di convenienza, anche tra uomo e donna, ci sono sempre stati. E quindi, se un matrimonio di convenienza lo fanno due uomini, anche se non omosessuali, c'è la libertà dei cittadini di farlo. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Siamo Bianca, Sofia e Costanza e tutte le mattine, ma dico tutte le mattine, ascoltiamo la lettura dei giornali a gratis. Buona giornata, siete fantastici, tu e tutto lo staff. Ciao! E Ale, anche questa mattina, dunque, alle 7:36 minuti siete qui a gratis. Questa è la cosa bella, ve li leggete, o meglio ve li leggo io, a gratis. Cioè, vabbè, pagatemi almeno lo stipendio qui a Radio 24, perché sennò di sti tempi è meglio ribadirlo. A gratis, voi a gratis. Allora, care amiche mie, a gratis, sappiate che c'è un grande dibattito in vista del 4 dicembre per questo voto sul referendum. Ieri Renzi ha detto: non resterò a galleggiare. Questa è la frase: se si tratta di galleggiare, io non ci sto. È la frase che in qualche modo ha rilanciato, secondo molti giornali, nell'analisi di oggi, il fatto che dovesse vincere il no, Renzi potrebbe in qualche modo farsi da parte. E il titolo del Corriere è proprio questo: Renzi, non resterò a galleggiare. Ma la grande polemica sono le accuse da parte del comitato del no di gravi ingerenze, perché per la lettera che è stata spedita a tutti gli italiani all'estero, sono circa 4 milioni i voti all'estero. E allora, per questa lettera spedita e firmata Matteo Renzi, senza neanche scrivere Premier, Presidente del Consiglio, Segretario del PD, per questa lettera i comitati del no hanno protestato. Il Corriere della Sera intervista Antonello Soro, che è il garante della privacy, il Presidente dell'Authority della Privacy, per capire se c'è qualche profilo di illegittimità in quello che ha fatto il Presidente del Consiglio. Dino Martirano intervista: chi manda lettera ai connazionali deve essere chiaro. Ricorsi per ora no. Soro esordisce: non ho elementi per valutare l'aspetto del fatto che, secondo il comitato del no, invece loro non hanno avuto accesso all'indirizzario completo degli italiani all'estero. Dice però Soro: nei 60 giorni antecedenti alla scadenza elettorale, chiunque sia titolato può ottenere dallo Stato le liste elettorali detenute da comuni e l'elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda l'invio di lettere e messaggi cartacei, non è necessario chiedere il consenso agli interessati. Invece è obbligatorio il consenso per mandare messaggi su telefono, tramite SMS, WhatsApp, email, in quanto questi strumenti sono più invasivi rispetto a una semplice lettera. D'accordo, ma chi sono i soggetti titolati a chiedere le liste degli italiani all'estero? Partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori, singoli candidati. E qui poi c'è la domanda. Matteo Renzi firma la lettera senza qualificarsi né come premier né come segretario del PD. Risponde il garante della privacy, nella lettera deve essere chiaro il mittente per consentire a chi la riceve di poter esercitare il suo diritto per sapere chi ha utilizzato i suoi dati personali. In questo caso mi sembrerebbe che un soggetto abilitato abbia avuto la possibilità di utilizzare i dati personali degli iscritti senza chiedere il consenso agli interessati. La deroga è prevista dal nostro regolamento. Insomma, il garante della privacy ipotizza che, no, che tutto sia, mi sembra, regolare, almeno ad analizzare da questa intervista, a parte la questione del mittente, deve essere chiaro chi sia, bisogna capire se leggere Matteo Renzi senza premier o senza segretario del PD è sufficientemente chiaro oppure no. Certo, molti giornali si esercitano su quello che viene definito, per esempio, dal giorno il circo Barnum del voto all'estero. Brogli, soldi, cambi di casacca, non ha mai portato benissimo, anche sulla questione delle elezioni in Parlamento. Abbiamo eletto, ricordate, Antonio Razzi all'estero, abbiamo eletto Sergio De Gregorio, colui che eletto con Di Pietro passò con Berlusconi e poi scomparve nel nulla. Abbiamo eletto, ricordate, Luigi Pallaro, il senatore italo-argentino su cui si basava il governo Prodi, torna dall'Argentina, arriva dall'Argentina per votare, tutti basati sul voto del senatore Pallaro e dai suoi viaggi dall'Argentina, questo nella legislatura dal 2006 al 2008. Insomma, diciamo che il voto all'estero non ha mai portato granché bene. Oh, per le polemiche vi segnalo che il giornale mette in prima pagina, come titolo di prima pagina, e poi l'articolo di pagina 3, un'accusa a Renzi, avere utilizzato un volo di Stato, un elicottero dal costo di 32.500 euro nel volo, per andare da Messina a Reggio Calabria dopo il tour elettorale in Sicilia. Chiara Giannini racconta, pagina 3, tutti i dettagli di questo utilizzo per 2 ore e mezzo di un elicottero, che ha caricato il premier, in mezz'ora di volo lo ha trasportato a Reggio Calabria, lì Renzi è sceso dall'elicottero, è ripartito per pratica di mare, impiegando altri 2 ore e 30 minuti, insomma un giochetto di 5 ore e mezzo, costato agli italiani 32.500 euro, di cui solo 17.000 euro di carburante. L'accusa del giornale è l'utilizzo di questo volo blu. Renzi cade sul volo di Stato, chiede il sì con l'elicottero. Questo dice il giornale. E poi la politica si muove molto la politica, perché sono dei gran movimenti in vista del 5 dicembre, per l'appunto, il giorno dopo il referendum. Segnalo intanto 2 interviste a Parisi. Stefano Parisi, che si smarca nettamente dalla Lega dopo che Salvini ha detto nella manifestazione di Firenze: sono pronto a mettere la faccia, sono pronto a candidarmi. Parisi invece dice sia al Corriere della Sera, intervistato da Paola Di Caro, sia al Messaggero, intervistato da Giampiero Timossi: voglio guidare i moderati. Sentite cosa dice, per esempio, al Messaggero: noi abbiamo valori che sono la piattaforma liberale e popolare, vogliamo essere popolari e non populisti, mentre la destra di Salvini è estremista, non rappresenta la maggioranza degli italiani, non si possono cavalcare solo i problemi delle persone, bisogna anche essere in grado di dare risposte. Noi abbiamo le risposte e sapremo governare. Questo Parisi al Messaggero, e anche il titolo del Corriere della Sera è proprio questo: voglio guidare i moderati, con la Lega ci schiantiamo. Io non sono di Forza Italia, non ci sono entrato, se c'è chi vuole che andare con Salvini in posizione minoritaria vada pure, noi vogliamo rappresentare altro. Tra l'altro Parisi fa sapere nella stessa pagina il Corriere della Sera, ha anche informato un Berlusconi irritato. Berlusconi sarebbe irritato con Salvini per quella piazza a Firenze. Berlusconi avrebbe detto, questo almeno racconta Tommaso Labate sempre sul Corriere della Sera: Salvini può dire quello che vuole, ma non sarà certo questa piazza a fare di lui il leader del centrodestra. Un Berlusconi irritato soprattutto per aver visto alcuni del proprio partito vicino o partecipare a questa manifestazione di Firenze. Ma come sempre sa tutto di quello che si muove nei meandri della politica, movimenti, sommovimenti, cambi di casacca, unioni, divisioni, scissioni. Il nostro politologo del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno caro Alessandro. Ma sì, scissioni, fusioni, moltiplicazioni. Divisioni, tabelline anche. Sì, anche tabelline volendo, magari... a questo del mattino con minore efficacia, perché sono, come sai, essendo lunedì, più preparato sul verseggio. Giusto. Quindi andrei a segnalarti... Premio Nobel per la letteratura 2017, candidiamo Mauro Meazza, prego. Sì, qualcuno, visto che si è sbilanciato, anche a dire che tu saresti la mia musa, adesso sì. Va, insomma, insomma, mantengo delle perplessità, con tutto il rispetto, caro. Siamo Alessandro. Vicini all'unione civile, anche noi, per convenienza, quindi. Per convenienza poetica, direi, allora vado a declamare. Declama. Matto è chi spera che ci sia ragione nel grande turbinar delle scadenze che il fisco in ogni mese predispone, più fitte che in stazione le partenze. Ma ora, è gran notizia, amici miei, di nuovo il calendario si rivede, cambiano le date, tolgono il tax day, legga il 24 ore chi non crede. Vedrà stampato un pratico riassunto accanto ai cambiamenti in sanità. Da oggi si potrà lasciare espunto il codice fiscale, se non vi va. Questioni son codeste assai complesse, ma il Sol 24 Ore fa da guide sulle cartelle che saranno rimesse o sulle nuove spine dello SPID. Se questa sigla ancora ti suona oscura è perché non hai detto al foglio 9 che per il tuo smarrimento sarà cura, come lo è stata già con molte prove. Credette Frank de Boer tener lo segno dei nerazzurri ed ora è Pioli il tattico. Domenica vedremo lo suo disegno. Ti faccio già gli auguri. Manda il traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Bentornato Alessandro Milan, il prelato che legge i giornali religiosamente. Va bene, cari ascoltatori, grazie davvero. Allora, ci sono novità per quel che riguarda la legge di bilancio e ci sono novità, anche questa è importante per tutti i papà futuri, ovviamente, perché c'è stato il via libera in commissione lavoro all'estensione del periodo di paternità obbligatoria, che ora è di 2 giorni, a 5 giorni per i papà. Rita Querzè racconta pagina 15 del Corriere della Sera. 5 giorni di congedo obbligatorio per i papà al momento della nascita del figlio. Lo ha introdotto un emendamento alla legge di bilancio passato in commissione lavoro alla Camera. Un secondo emendamento invece solleva le aziende con meno di 9 dipendenti dall'anticipo dell'assegno di maternità che verrebbe pagato dall'INPS. Queste le due più importanti novità. Beh, interessante i 5 giorni di congedo. Mentre un altro tema molto sentito che c'è sui giornali è la questione dell'azzardo, il gioco d'azzardo legalizzato. I sindaci anti-azzardo al governo, non cancellate i nostri divieti. È un dibattito che risolleva La Stampa, pagina 17. C'è il piano del Ministero del Tesoro che rischia di vanificare le distanze minime dalle slot dalle scuole. Cioè, cosa fanno i sindaci? Fanno delle ordinanze. Per esempio viene intervistato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che ha fatto questa ordinanza obbligando, per esempio, non so, a togliere il gioco d'azzardo dal centro, oppure a rispettare delle distanze dalle scuole, a rispettare delle distanze dalle chiese. E però, racconta Gabriele Martini sulla Stampa, c'è un braccio di ferro che va avanti da un anno. Da un lato c'è il governo che vuole introdurre una normativa nazionale per regolamentare l'offerta del gioco d'azzardo. Dall'altra parte ci sono comuni e regioni che chiedono a Renzi di non cancellare i divieti introdotti finora per arginare la piaga della ludopatia. L'ultimo confronto giovedì si è concluso con un nulla di fatto, ma il Tesoro ora pare aver fretta di chiudere. Ci sono le condizioni per un'intesa questa settimana, dice il sottosegretario all'economia Baretta. È una partita che si gioca sui cavilli. Nell'ultimo testo sottoposto agli enti locali, il governo conferma il proposito di ridurre del 30% le slot machine. Per quel che riguarda bar e tabacchi si parla di riduzione, non di eliminazione, come promesso a settembre. Inoltre le macchinette che escono dalla porta rischiano di rientrare dalla finestra. La proposta del governo prevede che i punti gioco di classe A non siano soggetti ai vincoli oggi esistenti in termini di distanze. È questo il punto cruciale. Significa che le restrizioni introdotte finora da 500 comuni italiani non si applicherebbero più a questo tipo di esercizi commerciali. E dunque c'è il rischio di vanificare quello che le ordinanze dei comuni hanno stabilito, sempre con l'obiettivo di voler istituire una legge generale. E però il rischio è quello di creare un po' un pasticcio. Vi segnalo due articoli del Fatto Quotidiano e di Repubblica, entrambi di due pagine, sul Giubileo. Si cominciano a fare i conti. Addio al Giubileo low cost, 20 milioni di pellegrini, ma il business non c'è stato. Chiuse tutte le porte sante, domenica toccherà la chiusura di San Pietro, a Roma afflusso record di fedeli, eppure negli hotel non si sono visti. Paolo Rodari racconta per Repubblica un Giubileo low cost. Ci sono stati 20 milioni di pellegrini arrivati a Roma nell'anno santo, ma negli alberghi della capitale non si sono visti. Così è andata, tanti fedeli che hanno varcato le porte sante delle quattro basiliche papali, senza tuttavia che il turismo di Roma ne abbia ricevuto benefici. Sono 14 milioni di turisti che, secondo le stime di Federalberghi e degli operatori, risulteranno essere passati da Roma in tutto il 2016. In sostanza sono però gli stessi del 2015. La spiegazione è tutta in un dato poco considerato nel tempo di Bergoglio, papa della sobrietà, che ha chiuso il Giubileo invitando ieri a San Pietro gli emarginati e i senza fissa dimora. L'anno santo ha visto diversi pellegrini sfuggire a ogni censimento, fedeli giunti a Roma in giornata, spesso con mezzi propri, alloggiando principalmente nelle strutture religiose a basso costo presenti in tutto il Lazio. E dunque non ci sono stati turisti in più. Questi un po' sono i numeri del Giubileo che trovate a pagina 16 e 17 di Repubblica. Ci sono altri numeri invece che mi hanno colpito. È una storia che la Stampa mette in prima pagina e che è un po' tra l'economia e anche, se volete, la poesia. La poesia della musica, in questo caso, dei violini italiani. Sapete che siamo i maestri con i nostri liutai in tutto il mondo per realizzare i violini migliori, quelli che il grande violinista Uto Ughi, il maestro Uto Ughi, dice suonano in modo diverso, quelli prodotti in Italia, i violini. Ma Sandro Cappelletto racconta sulla Stampa che i violini italiani diventano made in China. Nel senso che ogni anno le grandi fabbriche producono in tutto il mondo 30 milioni di violini e strumenti ad arco, destinati a un mercato molto aggressivo e dalle dimensioni globali. Da tutti i laboratori degli liutai italiani ne escono solo 5.000, un'inezia. E se un violino cinese costa 100 euro, ce ne vogliono 10.000 per invece acquistare un nostro strumento. Una concorrenza impossibile con gli Stradivari, gli Amati, i Guarneri del Gesù, i Montagnana, i Guadagnini. Con questi strumenti l'Italia ha tenuto a lungo il primato di un settore dove convivono artigianato e arte, tecnica e intuito, l'amore per un mestiere antico, ma anche l'incertezza per la quotidianità. E allora la Stampa, lo voglio fare vedere anche sul mio profilo pubblico Facebook, dedica due pagine ai violini, i violini italiani, e come i cinesi e i polacchi minacciano gli Stradivari italiani. Beh, purtroppo è una concorrenza spietata. È vero che Uto Ughi dice: ma i nostri strumenti suonano in modo diverso, cantano, ma noi ne produciamo 5.000 al prezzo di 10.000 l'uno, 10.000 euro, e in Cina e nel mondo ne producono 30 milioni di pezzi e arrivano a costare 100 euro. Certo, la qualità, ma è un settore che chiaramente quello italiano rischia di perdere proprio sotto il profilo della competitività. Allora, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. No! La nuova moda! No! Sulla rete, che cavolo è la Mannequin Challenge? Cos'è la Peter, guarda, cos'è la Mannequin Challenge? Praticamente è fare questi video in cui le star, a un certo punto, mentre fanno il video di una canzone, si bloccano e stanno immobili, così. Si blocca, tutti, e il Corriere dedica una pagina a questa nuova moda, la Mannequin Challenge. C'è una canzone e tutti Ma chi se ne frega!